Siamo parte di una chiesa che è meravigliosa perché ama servire. Anche questa è parte della cultura del regno. Non parleremo del servizio, ma parleremo della cultura del regno stasera. Io voglio mostrarvi una prima immagine. Quella che vedete alle mie spalle è un manoscritto che è datato dai 100 ai 300 anni prima di Cristo. Sapete che cosa significa? Che questo reperto archeologico che voi state vedendo, che è stato trovato in una delle grotte di Qumran, non so quanti hanno familiarità con questo nome, è un manoscritto del libro di Isaia. E la cosa straordinaria è che questo manoscritto diventa un reperto archeologico che tutti possiamo vedere, toccare con mano, ed è scientificamente provato che è stato scritto prima della venuta di Gesù. Ora, ciò che c'è di straordinario è che, sebbene non è l'originale, perché l'originale è stato scritto dai 600 ai 700 anni prima della venuta di Cristo, la cosa curiosa e interessante è sapere che c'è un documento datato, un reperto archeologico, che ha al suo interno, perché questo è il libro di Isaia, tante parole riguardanti la venuta di Gesù. Isaia anticipa come Gesù sarebbe venuto, come sarebbe nato da una vergine, che sarebbe stato anticipato dal ministero di Giovanni Battista. Isaia parla del fatto che Gesù avrebbe fatto miracoli, che sarebbe stato chiamato principe di pace, che avrebbe stabilito un regno, e noi parliamo di regno questa sera, e Isaia ci parla addirittura del fatto che non sarebbe rimasto morto, che sarebbe stato esaltato e avrebbe regnato. E questa è una cosa straordinaria, perché noi per fede crediamo che tutto ciò che la Bibbia dice è vero, anche la letteratura profetica, quella che a volte ci è più difficile comprendere e far nostra, però tutta la Bibbia dice il vero e lo dice da sempre. E questo reperto archeologico mi piace, no? Perché un po' è un'evidenza nei confronti del mondo. Abbiamo un mondo attorno a noi che è pieno di dubbi, e quando apre la Bibbia e legge il libro di Isaia che anticipa come viene Gesù, come nasce Gesù, quello che avrebbe fatto Gesù, dice: sì, va bene, ma io ho una copia che è stata stampata qualche anno fa, è una copia che è datata magari 1993 come questa. Però ci sono reperti archeologici che dimostrano che Dio ha realmente ispirato gli autori della Bibbia e ha dato a loro profezie che poi si sono avverate. Gesù è venuto ed è venuto esattamente come è stato descritto nel Vecchio Testamento e ha fatto le cose che i profeti hanno anticipato. Perché vi dico questo? Perché noi oggi apriamo una Bibbia che ha ancora delle profezie che devono essere avverate. E un giorno tutto ciò che c'è scritto del ritorno di Cristo si avvererà. E quello che oggi è una Bibbia che è stampata e che precede quello che avverrà, in quel momento diventerà un reperto archeologico. E noi potremo dire: io ho letto quel testo, io ho letto quelle parole, io ho letto quelle profezie, anticipavano la venuta di Gesù e Gesù è veramente tornato come è scritto nella sua parola e ha fatto quello che ha anticipato di fare. Crediamo questo? Gesù sta per tornare. Amen. Gesù sta per tornare. Siamo ancora una chiesa viva, siamo ancora una chiesa qui è italiana, che è rumorosa, siamo ancora una chiesa che è bella, nella quale è bello partecipare perché ci entusiasmiamo nel leggere la parola di Dio e parlare di Dio. Sono nel posto giusto? Ho sbagliato chiesa? Allora io lo ridico e facciamo una cosa, proprio perché siamo vivi, vero? Sei vivo? Dai un pizzico al vicino che hai a fianco e dici: sei vivo? Bene. Allora io adesso vorrei che noi dicessimo come andrebbe detto il fatto che Gesù sta per tornare, perché Gesù sta per tornare e quando tornerà sarà qualcosa di meraviglioso e noi bramiamo il ritorno di Cristo. Più l'ingiustizia di questo mondo aumenta, più tenebre ci sono attorno a noi, più cose brutte noi vediamo, più il popolo di Dio brama il ritorno di Cristo Gesù. Amen. Gesù sta per tornare, io lo dirò ancora una volta, però vorrei che sia anticipato da un nostro sbattere i piedi, vediamo quanto sappiamo sbattere i nostri piedi, E quando dirò Gesù sta per tornare, voglio che parte un boato dalla prima all'ultima fila, in modo tale che non si sente la mancanza di quelle persone che non sono venute stasera. Apro e chiudo una parentesi. Se conosci qualcuno, se ti viene in mente qualcuno che questa sera doveva essere qui, ma è rimasto da qualche altra parte, puoi fare qualcosa a nome mio? Molto gentilmente, con amore, perché noi con amore esortiamo e incoraggiamo, puoi mandargli un messaggio a fine di questo incontro e dirgli, sai che noi viviamo in Puglia ed è meraviglioso vivere in Puglia. Non siamo a Venezia, non siamo in Trentino Alto Adige, non siamo negli Appennini, siamo a Modugno. C'è bel tempo e due gocce non dovrebbero scoraggiarti dal venire in chiesa. Sei d'accordo con me? Ci piace? Ora, pronti con i piedi? Pronti a fare un boato? Gesù ritornerà! Gesù ritornerà e sarà meraviglioso. Amen. Gesù ritornerà e noi non vediamo l'ora. Quando Gesù è venuto per la prima volta, che cosa ha fatto? Con Gesù è venuto il suo regno su questa terra. L'abbiamo già detto la scorsa domenica. Ora, il suo regno è venuto, è stato stabilito dalla presenza di Gesù. Gesù si è appartato un popolo. Quando Gesù tornerà, ascoltatemi bene, il suo regno sarà definitivamente stabilito. Quello che Gesù farà è concludere tutta questa fase di attesa che noi stiamo vivendo, in una situazione di mezzo. Lui debellerà completamente il male, lo confinerà, giudicherà il diavolo e giudicherà i demoni, e noi saremo liberi da ogni male, noi saremo senza malattia, non ci saranno più guerre, non ci sarà più inimicizia, dentro di noi non ci sarà stanchezza, depressione, nessuna delle cose negative che viviamo in questo mondo, in questo tempo, vivremo quando Gesù tornerà. È per questo che non vediamo l'ora, fratelli e sorelle. Gesù tornerà e sarà la cosa migliore che noi potessimo mai aspettarci, perché sarà molto oltre quello che noi riusciamo a descrivere. Gesù tornerà e la giustizia sarà stabilita. Io bramo il ritorno di Gesù. E Filippesi al capitolo 3, versetto 20, dice queste parole. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo, noi aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Noi stiamo aspettando Gesù Cristo il Signore perché la nostra cittadinanza è cambiata. Nel momento in cui Gesù ha liberato i nostri cuori dal maligno, dal peccato e ci ha salvati, noi abbiamo cambiato cittadinanza. Da essere italiani siamo diventati cittadini del regno di Dio. Amen. Io ho una doppia cittadinanza, ho la cittadinanza italiana ricevuta da mio padre, ho la cittadinanza olandese, ho un passaporto italiano e ho un passaporto olandese, ho dei diritti da italiano, molto pochi, e tanti diritti da olandese, però c'è una terza cittadinanza che io ho, è la più bella, è la più gloriosa, io sono cittadino del Regno dei Cieli. Tu sei cittadino del Regno dei Cieli ed è una cosa meravigliosa e te lo voglio ricordare questa mattina, questa sera, perché sapete è così importante che noi ci rendiamo conto che nell'attesa del ritorno di Cristo Gesù noi abbiamo un mandato. Noi abbiamo un mandato da quel Gesù che è venuto e ha stabilito il suo regno. Lui ha dato a noi una responsabilità. Ha dato a noi la responsabilità di rappresentare il regno che verrà. Vedete, in 2 Corinzi 5, al versetto 20, l'Apostolo Paolo lo mette molto in chiaro e dice, noi dunque facciamo da ambasciatori, noi facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il nostro messaggio. L'Apostolo Paolo sta dicendo: noi siamo degli ambasciatori. L'ambasciatore che cos'è? L'ambasciatore è un rappresentante in terra straniera della propria terra di origine. Tu sei rappresentante su questa terra del regno che verrà, del regno tuo di origine, del regno per il quale Gesù è morto e risorto e ha afferrato la tua vita. Tu sei cittadino del regno e hai un mandato da Dio. Gesù dice queste parole in Giovanni al capitolo 20, verso 21. Come il Padre mi ha mandato, io mando voi. E dove li ha mandati questi apostoli? Li ha mandati su Marte, li ha mandati su un altro pianeta, li ha mandati in nazioni sconosciute. No, loro sono rimasti, almeno per un periodo, anche proprio nelle loro città natie. Quindi che cosa è successo? Gesù ha fatto comprendere con questa frase ai suoi discepoli: io vi mando in questo mondo come stranieri, perché non siete più di questo mondo, siete in questo mondo, ma non siete più di questo mondo, e in questo mondo avete un mandato: rappresentare il regno di Dio. Io, tu, rappresentiamo il regno che verrà. Le persone, la società che ci circonda, osservando noi, dovrebbe pregustare, e pregusta, non voglio metterla in chiave negativa, pregusta quello che avverrà quando Gesù tornerà, pregusta quell'amore, pregusta quella pace, pregusta quella sintonia, pregusta quella giustizia. Quando le persone osservano la Chiesa dovrebbero vedere costantemente questo, perché noi siamo rappresentanti del Regno di Dio, ed è per questo che io voglio parlare della cultura del Regno di Dio. Perché, sapete, ci sono dei buoni rappresentanti di una cultura e ci sono dei cattivi rappresentanti di una cultura. La scorsa settimana abbiamo pregato per la Finlandia, ve lo ricordate? Stasera chiedo preghiera per la Svezia. Vi dimostro perché. Possiamo proiettare la foto della pizza svedese. Ragazzi, io quando ho visto questa immagine ho cominciato a intercedere in tutte le lingue del mondo. Sono andato a tradurre quella frase che ero curioso. Che cosa avevano da dire questi svedesi con questo linguaggio, già che è incomprensibile, questi cerchietti, questi accenti, che cosa hanno da dire su questa pizza? E quello che hanno da dire è che questo è l'incontro prelibato di due mondi, il mondo delle pizze e il mondo della frutta. E siamo letteralmente arrivati alla frutta. Gesù sta per tornare. Gesù vede queste cose, si scandalizza con noi. Dice: come si può rappresentare così male la cultura italiana nel mondo? Io devo tornare. Questo ci urta, ti urta? Non ti urta sapere che su quella pizza ci sono dei kiwi? Non ti urta sapere che su quella pizza ci sono dei pezzi di arancia? Fragole e mirtilli, ragazzi! Mio fratello ci incoraggia a pregare per le nazioni, e solitamente quando lo facciamo puntiamo le nostre mani verso sud e verso est. Io vi incoraggio a puntarle anche verso nord, per piacere, perché questa è una rappresentazione molto negativa. E no, non solo la Svezia sta messa male, dobbiamo pregare anche per gli Stati Uniti. Ora lo posso dire perché mia cognata non c'è stasera, almeno io non la vedo, mia cognata è americana, ok? E ho da farvi vedere un'immagine. So che sta per urtarvi ancora di più nello spirito quello che state per vedere, ma è per capire, no, quanto è brutto quando una cultura viene rappresentata male. Guardate questa immagine, loro la chiamano la spaghetti cake. Spaghetti cake, torta di spaghetti. Ed è tutto sbagliato, già prima di tutto perché non sono spaghetti, sono tagliatelle. E sopra queste tagliatelle hanno messo quelli che credo sono dei cupcake con della crema al cioccolato. Ragazzi, preghiamo per la Svezia e non dimentichiamoci di pregare per gli Stati Uniti. Ogni qualvolta un ristorante serve piatti del genere, c'è una nonna italiana che muore. Preghiamo per queste nazioni. non sanno che cos'è la cultura italiana e non la stanno rappresentando bene. Ora vedete, tutto questo è anche per dire qualcosa, non è solo per riderci su o piangerci su, ma è per dirvi qualcosa, che una cultura può essere rappresentata male. C'è la pizza, c'è la salsa di pomodoro, c'è la mozzarella, ma a noi piace anche il kiwi, ci piace l'arancia, ci piacciono i mirtilli, perché non metterli sopra? La cultura del regno non può essere mischiata alla cultura di questo mondo. La cultura del regno, per avere efficacia ed essere d'impatto in questo mondo e portare persone a riconoscere quello che verrà, non può essere inquinata dalla cultura del mondo nel quale viviamo. Non puoi unire due cose. Gesù lo dice nel Sermone sul Monte, dove presenta largamente la cultura del regno di Dio, e dice a un certo punto, parlando di finanze, perché anche lì toccheremo questo aspetto, dice: voi non potete servire due padroni, perché o amerete l'uno e odierete l'altro, oppure amerete l'altro e odierete il primo. Ed è così, tu non puoi amare la pizza e la frutta insieme, come, le puoi amare, ma le devi lasciare separate. Siamo tutti d'accordo su questo? Sono sempre nella chiesa che, grazie Signore che mi hai mandato a Modugno e non in Svezia. Ci pensate che il Signore mi chiama in Svezia o in Finlandia ad andare? Quante preghiere e intercessioni che dovete fare per me. Ora, le due cose rimangono separate, devono rimanere separate. Io questa sera voglio parlarvi del fatto che la cultura del regno è una responsabilità che noi abbiamo. Perché ogni qualvolta noi viviamo la cultura del regno, e vi ricordo che la cultura sono i valori che noi promuoviamo, le convinzioni che noi abbiamo. La cultura sono i comportamenti che abbiamo nella nostra vita. Questa è cultura. E io voglio che noi comprendiamo che vivere la cultura del regno è una responsabilità per questo mondo che vive nelle tenebre, in culture che sono nel buio. Ora, non tutti gli aspetti culturali sono negativi, ma alcuni collidono con la cultura del regno, e noi dobbiamo essere disposti a metterci in discussione e chiederci che cosa deve cambiare nella cultura, nel mio modo di fare, nelle mie convinzioni, nei valori che io ho, nelle cose di cui, nei comportamenti che assumo, che cosa deve cambiare affinché io possa essere un buon rappresentante del regno di Dio. In modo tale che Gesù, osservando, mi dice: sì, questo mio figlio mi sta rappresentando bene. E vedete, rappresentare il regno di Dio prevede, come dicevo, prima di tutto che ci mettiamo in discussione, e secondo che non ci facciamo influenzare e non mischiamo le cose. È importante questo, è fondamentale che noi non mischiamo le cose. È fondamentale che noi non adattiamo le cose e finiamo poi per vivere una cultura che funziona quando stiamo in chiesa. È vero, perché noi credenti finiamo di fare questo, avere una cultura del regno, ma in chiesa, quando siamo in compagnia di altri credenti. Ma quando si tratta di stare con persone di fuori che né valorizzano questa cultura, né l'accettano, né la condividono con noi, ma addirittura ci emarginano per questo, non la condividiamo più. E quindi viviamo questa doppia personalità, abbiamo un disturbo di personalità noi credenti a volte, perché in chiesa siamo una persona, fuori dalla chiesa siamo un'altra persona. Con i fratelli sappiamo utilizzare la nostra bocca nella maniera idonea, e stasera parleremo di lingua, di linguaggio, perché questo è un aspetto della cultura, ma quando siamo fuori cambiamo e adottiamo la cultura che abbiamo sempre avuto. Questo non è giusto, questo non è buono. Vogliamo metterci in discussione? Amen, fratelli, vogliamo farlo insieme stasera? Io voglio parlarvi di linguaggio. Io voglio parlarvi di linguaggio perché, vedete, la Bibbia parla ampiamente di questo aspetto. Parla tanto di come noi parliamo, di quanto è importante che noi diciamo le cose giuste, che noi utilizziamo questo mezzo che Dio ha dato a ciascuno di noi per essere un mezzo efficace per impattare il mondo e non per condividere quello che il mondo vive e fa. Troviamo nella Bibbia degli interi libri che non fanno altro che parlare di lingua. In modo particolare i libri sapienziali, se pensate ai proverbi, è un continuo su come parli, su come rispondi, su quello che dici, quello che affermi, quello che confessi. Giacomo, che è un altro libro sapienziale del Nuovo Testamento, alla stessa maniera dedica un intero capitolo all'utilizzo della lingua. E io voglio che noi comprendiamo che la nostra bocca è come un autoparlante. E io vorrei che questa sera noi potessimo uscire da questo incontro facendo insieme una decisione. La decisione che questo autoparlante pronunci, dichiari e parli parole che rappresentano il regno di Dio. Ad un volume e ad una intensità crescente. Vogliamo leggere un primo verso in Tito 3. Tito 3, dal versetto 1, ci parla della cultura del regno. Ed è bello vedere questo elenco. Ci sarebbero tante cose da dire. In Tito leggiamo: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità. Che siano ubbidienti. Ve lo leggo lentamente perché è così che va letta la Bibbia. Falla penetrare, falla scendere. Renditi conto quanto a volte siamo lontani dal vivere pienamente la cultura del regno di Dio. Sottomessi, ubbidienti, che parole forti. Non si ferma qui. Dice pronti a fare ogni opera buona. Pronti a fare ogni opera buona. E poi aggiunge, ascoltate bene ora, che non dicano male di nessuno. Ricorda loro che non dicano male di nessuno. Non solo dei fratelli, non solo delle sorelle, non solo delle persone simpatiche, non solo del pastore, non solo del mio capogruppo, no, di tutti. Che non dicano male di nessuno. Questa è la volontà di Dio. Noi lo rappresentiamo. Qual è il prezzo da pagare? Che le persone ci prenderanno per pazzi. Che non dicano male di nessuno. Che non siano litigiosi. Che siano miti. Mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ripetete con me queste parole, ve le rileggo e le pronunciate a voi ad alta voce, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ripetete. Ripetiamolo ancora una volta, no? E pensate a quanto non dice mostrando gentilezza, dice mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ripetetelo ancora, mostrando... Ho letto questo verso qualche giorno fa e poi sono andato al supermercato. Al supermercato ero impegnato con la lista della spesa, con quel momento cruciale che arrivi, no, alla cassa e è una gara, no, a chi vince prima, perché c'è la cassiera che passa i prodotti e ti sfida, ti guarda perché è velocissima e tu hai una busta che non si apre in quel momento, l'ansia dei clienti che si avvicinano e devi essere più veloce della cassiera, no? E c'è quel momento che tu sei tutto preso, tutto impegnato e io ero preso da questo momento. Però c'era questo verso che ce l'avevo in mente, sapevo che volevo essere gentile con questa cassiera. Allora, impegnatissimo, ho riempito la busta, l'ho guardata negli occhi, ho detto: ti ringrazio di cuore, buona giornata e buon lavoro. E mi ha guardato e dice: ma questo, ma di che mondo è? Questa dovrebbe essere la reazione che le persone hanno. Se noi siamo stranieri su questa terra e ambasciatori di un altro regno, le persone dovrebbero vederci come dei stranieri e chiedersi: ma da dove viene tutta questa gentilezza? Da dove vengono tutte queste parole di gentilezza? Immaginate se la Chiesa, appropriandosi di questa verità, comincia a comportarsi costantemente in questa maniera. Il mondo, come già fa, ma lo farebbe in maniera crescente, comincerebbe a parlare di noi. A volte noi pensiamo che il regno di Dio avanza per opere grandiose, per miracoli, per prodigi, per segni, e lo chiediamo anche al Signore, diciamo: Signore, se tu solo ridessi la vista ai ciechi e facessi camminare zoppi, allora Modugno si convertirebbe. Gesù dice: no, io vi chiamo ambasciatori, io vi chiamo rappresentanti del mio regno. Le persone rimarranno altrettanto scioccate, se non di più, vedendo il vostro comportamento, che è completamente cambiato, perché pur essendo modugnesi non vi comportate più come modugnesi, pur essendo bitontini non vi comportate più come bitontini, il che è un miracolo meraviglioso, pur essendo mottolesi non vi comportate più mottolesi, anche se Mottola è già più in alto e loro già hanno raggiunto un certo livello di gloria. La nostra bocca è un autoparlante. Avete presente quell'icona che esce negli autoparlanti? Vi voglio far vedere questa immagine, perché io voglio parlarvi di quattro livelli del volume del nostro autoparlante che dà gloria a Dio attraverso le parole che pronunciamo. Il primo sono parole gentili. Parole gentile. Un buon rappresentante del regno usa parole gentili. Punto numero due, e qui aumentiamo un po' il volume. Un buon rappresentante del regno usa parole costruttive. Questo è un verso che c'è caro a noi come Chiesa, e noi come Chiesa viviamo questo e lo vogliamo intensificare. Noi vogliamo essere una Chiesa che ha una cultura dove il linguaggio è un linguaggio di edificazione, non distruttivo ma costruttivo. E Efesini al capitolo 4, versetto 29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Nessuna cattiva parola. Di nuovo, quanto è radicale il regno di Dio, quanto è radicale la cultura del regno di Dio. Non dice: quanto meno parole cattive escono dalla vostra bocca, meglio è. No, no, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Nessuna parola corrotta. Quel cattivo significa corrotta, che fa male, che non costruisce. E poi aggiunge: ma se ne avete una buona, che edifica, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a coloro che l'ascoltano. Con le parole noi edifichiamo e con le parole noi demoliamo. Con le parole noi costruiamo relazioni, con le parole demoliamo relazioni. Con le parole noi costruiamo il nostro figlio adolescente, con le parole noi demoliamo il nostro figlio adolescente. Con le parole noi costruiamo un sano matrimonio, con le parole noi distruggiamo un matrimonio. Con le parole noi costruiamo un ambiente, un'atmosfera familiare sana, accogliente, che promuove ogni singolo membro della famiglia. Con le parole possiamo demolire quell'atmosfera e creare un nucleo familiare che è distruttivo per noi e per chiunque entra. Con le parole noi costruiamo la Chiesa e con le parole possiamo demolire la Chiesa. C'è grande potenza e grande responsabilità è data alle nostre parole. Parla, pronuncia parole che edificano. Un buon rappresentante della cultura del regno usa parole che costruiscono. Vi va di alzare ancora il volume? Arriviamo al terzo punto. Alziamo ancora il volume. Qui entriamo nel miracoloso, perché le parole hanno una potenza soprannaturale. Un buon rappresentante del regno, terzo punto, usa parole di vita. Proverbi al capitolo 18, versetto 21 dice: morte e vita è in potere della lingua. Morte e vita. Noi, guardatela dal punto di vista positivo, noi facciamo risorgere persone con le nostre parole. Noi diamo vita a sogni, noi diamo vita a prospettive future di vita di altri nostri fratelli o sorelle, individui. Noi diamo vita, portiamo a vita chi è in una stagione di morte. Quando noi abbiamo un fratello, una sorella che sta attraversando una valle, la valle dell'ombra della morte, noi con le nostre parole possiamo tirarli su, noi possiamo dare vigore, li possiamo riportare riportare in vita. Noi siamo quello strumento, no, che gli infermieri usano nel pronto soccorso, no, e danno quella scarica di elettricità. Com'è che si chiama quel macchinario, no? L'elettroshock, si chiama così. Il defibrillatore. Noi con la bocca possiamo defibrillare, si può dire così, le persone. Noi diamo uno shock culturale, diamo vita e facciamo battere cuori. Non è meraviglioso? È soprannaturale. Tu puoi portare vita. Tu puoi portare vita. Gesù ha salvato una donna che gli è stata portata, condannata alla morte, e l'ha salvata con le sue parole. Perché le sue parole erano divinamente guidate in quel momento. Erano sempre divinamente guidate. E disse una frase che è rimasta e che anche le persone di questo mondo che non leggono la Bibbia la conoscono. Gesù in quel momento ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E in quel momento, con quelle parole, ha salvato una vita e ha salvato un destino di vita. Quella donna si è rialzata e a quella donna Gesù ha potuto dire: alzati e non peccare più, persegui una vita di santità, persegui una vita con uno scopo, vivi per il regno di Dio. E io sono convinto che questa donna ha vissuto una vita piena, meravigliosa, perché era morta, era destinata a morire quel giorno ed è rinata, risorta in quel momento quando Gesù ha usato la sua bocca per proteggerla, per accudirla, per farla rialzare in piedi, sana e riscattata completamente da tutti i suoi peccati. Con le tue parole tu puoi dare vita. E io ti invito a chiedere parole soprannaturali a Dio. Nessuno di noi è sufficiente a questo. Nessuno di noi con una sapienza umana può dire delle parole che miracolosamente danno vita a persone che sono nella depressione, nella tristezza, nelle situazioni più difficili, ma noi, chiedendo a Dio ispirazione, possiamo muovere le nostre labbra in una maniera talmente miracolosa e straordinaria e soprannaturale che possiamo dare vita a quelle persone che stanno morendo. Non è meraviglioso? Puoi dirlo alla persona che ti sta a fianco, puoi dirgli: tu puoi portare vita con le tue parole, la tua bocca è preziosa. Un buon rappresentante del regno usa parole di vita. Ripetiamo, un buon rappresentante del regno usa parole gentili. Questo è il minimo, no? È il minimo del volume, è il sottofondo musicale che dovrebbe accompagnare ogni nostro giorno. Un buon rappresentante del regno usa parole che sono costruttive e un buon rappresentante del regno usa parole che portano vita. E per ultimo, un buon rappresentante del regno usa parole profetiche. Ci piace? Io penso ancora a 2 weekend fa, quando il pastore Mike è stato con noi e c'è stato questo esercizio così bello del profetico. Lui lo ha esercitato, ha edificato, ha liberato, ha messo a luce cose che erano nelle tenebre per portare vita e speranza. Questo è quello che il profetico fa. E io voglio incoraggiare noi come Chiesa ad utilizzare il linguaggio profetico. Questo dà pieno volume alla nostra bocca per portare benedizione a molti. In 1 Corinzi, al capitolo 14, dal versetto 1, c'è scritto questo: ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente, dice la parola di Dio, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, un linguaggio di esortazione, un linguaggio di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Il mio desiderio è che la nostra Chiesa sia solidamente costruita e che più piani si possano elevare e che l'influenza della nostra Chiesa possa crescere. E quando leggo questo verso mi rendo conto che qui c'è una chiave. Gesù sta dicendo: dovete desiderare il dono di profezia, dovete esercitare il dono della profezia. Che cos'è il dono di profezia? Il dono profetico è quella capacità di poter conferire delle parole che portano, come abbiamo letto, edificazione, esortazione e incoraggiamento nel nostro fratello, nella nostra sorella. Sono delle parole che sono ispirate da Dio. Sono delle parole che vengono sussurrate a volte al nostro cuore e ci vengono date dallo Spirito Santo che dimora in noi. Queste sono parole, quelle profetiche, che rivelano delle cose nascoste. Infatti, qualche verso dopo c'è scritto che se tutti profetizzano nella chiesa ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti. Non c'è scampo per questa persona. Non ci sarà scampo per persone che vengono per la prima volta in mezzo a noi se noi muoviamo le nostre labbra divinamente guidati da Dio con il dono profetico. Perché è scrutato da tutti, aggiunge. I segreti del suo cuore sono svelati. E così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra di voi. Questo è quello che la profezia fa, svela cose che sono nel cuore e mostra cose che devono venire, mostra chiamate, mostra cose che ancora non sussistono, ma nel momento in cui vengono dichiarate prendono piede nella vita del nostro fratello, della nostra sorella e sbloccano dei destini di vita prima sconosciuti. Se io sono qui questa sera, una ragione è perché qualcuno ha profetizzato su di me e mi ha permesso di credere quello che io non avrei mai creduto. Non lui, ma lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo mi ha parlato in quel momento, facendomi comprendere: c'è un piano per la tua vita. Io mi voglio servire di te e voglio annunciare la parola. Voglio che tu annunci la parola e voglio utilizzarmi di te per raggiungere tante persone. Quando noi utilizziamo il dono profetico, noi sblocchiamo dei destini di vita e persone cominciano a vedersi non più per quello che sono o per quello che erano, ma per quello che sono chiamati ad essere in Cristo Gesù. Ora, se volete sapere di più del dono profetico, io non avrei tempo qui per spiegarvi tutto, però abbiamo un corso specifico, il percorso 3. E il percorso 3 a breve sarà riattivato, quindi se non hai fatto ancora il percorso 3 io ti chiedo di iscriverti, di venire, perché parliamo lì del battesimo dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo, esercitiamo i doni, cresciamo nei doni, comprendiamo il profetico e lo viviamo. Quindi se non hai fatto il percorso 3, fallo. Posso vedere le mani di quanti non l'hanno fatto ancora? Ci sono tanti, sarà bellissimo avervi tutti. Sarà bellissimo avervi tutti nel prossimo corso. Però c'è qualcosa che io voglio dire del dono profetico. Il dono profetico non è il mezzo attraverso il quale ci togliamo il sassolino dalla scarpa. Perché è più efficace dire al nostro fratello: no, il Signore mi ha detto. Quando in realtà è una nostra indicazione ed è qualcosa che noi vorremmo tanto dire, ma con le nostre parole non abbiamo il coraggio di dirlo. Allora diciamo: il Signore mi ha rivelato, mi ha mostrato e ti dice in questo momento. C'è una storia che poi, se venite al percorso 3, la sentirete, è molto divertente a riguardo. Il dono profetico è qualcosa che noi non esercitiamo in base a quello che sappiamo dell'altro per indicare percorsi, scelte, vie. È inutile che ci riempiamo la bocca di parole: il Signore mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha rivelato. Se sai che quello è un bisogno del tuo fratello, sii sincero, perché puoi utilizzare un linguaggio normale e dire: senti, io so che sei in questa situazione. Non è che lo Spirito Santo me l'ha rivelato. A dire il vero, è stata quella sorella che me l'ha detto. E non è lo Spirito Santo. E so che stai vivendo questa situazione difficile e io ti voglio incoraggiare. A volte è più efficace, perché se poi chi lo riceve sa o percepisce che tu stai facendo un uso sbagliato delle parole, non avrà fiducia nel seguirti. Lo Spirito Santo è qualcosa che noi viviamo nel momento in cui abbiamo intimità con lo Spirito Santo. Il dono profetico viene dallo Spirito Santo. E se tu vuoi crescere in questo, è necessario che tu hai intimità con lo Spirito Santo. perché è lo Spirito Santo che ti parlerà e ti mostrerà cosa dire. E quindi è importante, se vuoi crescere nell'utilizzo del dono profetico, che tu passi del tempo in preghiera e che la tua preghiera sia fatta anche di tempi di ascolto. Chi dà parole profetiche e chi è esercitato in questo solitamente sono persone che sanno stare in silenzio alla presenza di Dio, sanno aspettare e non hanno fretta. Se vuoi crescere nell'utilizzo del dono profetico, non puoi avere fretta. Stai alla presenza di Dio, chiedi a Dio e Lui parlerà. Il dono profetico è qualcosa che noi sempre dobbiamo esercitare. Quando siamo convinti che la parola che stiamo per dare è da parte di Dio, e anche quando siamo incerti. Perché la Bibbia ci presenta una responsabilità che ha ogni credente che ascolta una profezia. Non tutta la responsabilità è data a chi profetizza. La Bibbia dice di ritenere il bene esaminando prima ogni cosa. La Bibbia dice che addirittura dovremmo giudicare una profezia consultando più di una persona, due, tre persone. Quindi non prendere mai una profezia per buona semplicemente perché qualcuno te l'ha detta, mettila sotto esame. Vivila nella stanzetta, chiedi suggerimento e parere a fratelli e a sorelle. E se è sbagliata, e io ho avuto tante parole profetiche sbagliate, non abbiamo da condannare quel fratello, perché quel fratello ha fatto la cosa giusta, ha esercitato il dono profetico, si è slanciato in qualcosa di coraggioso, e anche se è sbagliato non è da condannare, perché è qualcosa che noi tutti impariamo a fare e a volte possiamo sbagliarci. Non condannare il fratello, ama il fratello, ma esamina quella parola profetica in preghiera davanti a Dio e consultando altri credenti maturi. Io do queste indicazioni perché in questa settimana, nel riunirvi nei gruppi in casa, nel foglio guida ho segnato proprio ai capigruppi, per piacere vivete un tempo che sia un tempo profetico, che sia un tempo nel quale ascoltate la voce di Dio e profetizzate gli uni agli altri. E io voglio dare questa indicazione affinché possiate vivere dei gruppi nei quali c'è una sana ricerca del profetico. Ricapitoliamo. Un buon rappresentante del regno di Dio usa parole gentili. Un buon rappresentante del regno di Dio usa parole costruttive. Un buon rappresentante del regno di Dio usa parole soprannaturali che portano vita. E un buon rappresentante del regno di Dio usa parole profetiche. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo vivere un tempo di preghiera. Vogliamo arrendere i nostri cuori davanti a Dio. Vogliamo aspettare lo Spirito Santo questa sera. Ti invito a chiudere i tuoi occhi, se hai libertà di farlo, ad alzare le tue mani al cielo. Vogliamo essere in ascolto, vogliamo essere disposti a metterci in discussione alla luce della parola che abbiamo ascoltato questa sera. Vogliamo chiedere a Dio ogni cosa della cultura, delle nostre abitudini, modi di fare, valori e credenze che non si allinea alla cultura del regno, che sia da noi sradicata e rimpiazzata da nuovi valori, da nuove credenze, da nuove abitudini. Padre, siamo qui per questo. Siamo qui perché ti amiamo. Siamo qui perché godiamo del miracolo che tu hai fatto nelle nostre vite, salvandoci e liberandoci e trasferendoci dal regno delle tenebre al regno della luce. E questo tu l'hai fatto con la tua venuta su questa terra, morendo e poi risorgendo. Siamo qui, Padre, in attesa della tua, del tuo ritorno, della tua seconda venuta, dove definitivamente il tuo regno sarà stabilito. Non vediamo l'ora, Padre. La tua Chiesa non vede l'ora. Non vede l'ora che l'ingiustizia sia condannata e giudicata, che le cose che non vanno della nostra società possano essere estirpate, che il male che è nel nostro cuore sia del tutto sradicato. Non vediamo l'ora. E nel frattempo, Padre, vogliamo essere buoni rappresentanti del regno che verrà. Siamo cittadini del tuo regno, Padre, e per noi è un privilegio enorme ed è una responsabilità senza misura. In questo momento, mentre tu vedi i nostri cuori e li esamini, noi in modo particolare vogliamo pregarti per quello che esce dalle nostre labbra. Parole cattive, parole scontrose, parole offensive, parole di rabbia, parole non gentili, parole fredde, parole che non edificano ma che distruggono. Gesù, noi in questo momento alla tua presenza ti chiediamo perdono. Questa è la prima cosa che facciamo come Chiesa, ti chiediamo perdono. Perdonaci. Perdonaci, perdonaci. Sappiamo che siamo mancanti. Lo riconosciamo, Gesù, riconosciamo che siamo mancanti. Nessuno di noi qua si può alzare in piedi e dire: no, io questa cosa l'ho aggiustata nella mia vita, è perfetta nella mia vita. Nessuno di noi. Siamo tutti nella stessa condizione. Eppure siamo tutti amati e perdonati da te. Questo è meraviglioso. Grazie per il tuo perdono. Aiutaci a fare meglio. Questa è la nostra preghiera questa sera. Aiutaci a fare meglio. Cambia i sentimenti che vanno cambiati dentro il nostro cuore, perché è dal nostro cuore che partono le parole. E modifica il nostro linguaggio. Io lo prego per tutta la Chiesa, in questo momento, nel nome di Gesù. La mia convinzione è che mentre io predicavo questa sera, delle persone ti sono venute in mente, delle facce ti sono venute in mente, persone, facce nei confronti delle quali hai usato delle parole che non sono allineate alla cultura del regno, persone nei confronti delle quali hai detto parole fuori luogo, con le quali ti sei scontrato, con le quali hai portato parole non solo fredde ma distruttive. E Gesù è qui per sanare, Gesù è qui per riconciliare a sé ognuno di noi e riconciliarci anche nelle relazioni. Forse sei qui e hai subito delle parole. Io voglio pregare, prima di tutto per chi ha avuto in mente delle persone. Se tu sei qui e riconosci che ti sono venute in mente delle persone, delle facce, e sai che hai una missione nei confronti di queste persone, da parte di Dio, di rappresentare meglio il regno, di cambiare le tue parole, di andare, chiedere scusa, cambiare il tuo linguaggio, io ti chiedo con molta apertura e sincerità di alzare le tue mani, voglio pregare per te. Se c'è qualcuno, alza ora le tue mani. Alleluia, Gesù, noi con questo gesto semplice di arresa, alzando le nostre mani, ti chiediamo, mandaci dalle stesse persone con un linguaggio nuovo e risana quelle relazioni. Porta attraverso le nostre parole vita e non morte, edificazione e non distruzione. Benedico ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle con le proprie mani alzate. Ti chiedo di dargli la pienezza dello Spirito Santo. Chiedo a te, Spirito Santo, di scendere e riempire queste persone. E ti chiedo di fare in modo che nuove parole ispirate da te, guidate da te. Tu sai quanto è difficile per noi andare, chiedere scusa, dire parole che non sono naturali per noi. Io ti chiedo, Gesù, che tu possa rendere naturale ciò che non è naturale. È semplice ciò che per noi è difficile, a volte impossibile. Padre, io prego per l'impossibile nella vita di ogni persona che ha le proprie mani alzate in questo momento, nel nome di Cristo Gesù, e prego per riconciliazione. Sento di dirti questa sera, questo è un tempo di riconciliazione. Gesù sta riconciliando relazioni, Gesù sta guarendo cuori, e sta guarendo prima e più di tutto il tuo cuore, che è ben disposto a fare la sua volontà e a rappresentare il suo regno. Voglio pregare per chi questa sera ha subito delle parole, è ferito, c'è guarigione alla presenza di Dio, amen? E noi vogliamo pregare per la guarigione del tuo cuore. Forse sono parole recenti, forse sono fresche, quanto una giornata, magari oggi ti sono state rivolte delle parole che hanno demolito, che ti hanno ammazzato, che ti hanno ferito in un qualche modo. Possono essere vecchie, possono risalire addirittura alla tua infanzia e ancora portano dolore nel tuo cuore. Noi vogliamo pregare per guarigione dei cuori questa sera, perché Gesù ama guarire i cuori. Amen. Se tu sei quella persona, vuoi alzare la tua mano e vogliamo avvicinarci a te per pregare con te e per te. C'è qualcuno che dice: io voglio, desidero tanto preghiera in quest'area della mia vita. Vedo diverse mani che si stanno alzando, chiedo ai ministri di avvicinarsi a queste persone. O se senti, se hai libertà di pregare, girati attorno e appoggia la tua mano su coloro che hanno la loro mano alzata. Vogliamo pregare per guarigione. C'è guarigione nel nome di Gesù, amen. C'è guarigione nel nome di Gesù per ogni parola che non veniva da parte sua ed è venuta per demolire, per distruggere, per portare ferite nel tuo cuore. Nel nome di Gesù noi dichiariamo guarigione in questo luogo. Alza la tua mano. Se ancora qualcuno non ti ha raggiunto, fatti vedere. E per piacere, fratelli, sorelle, muoviamoci dai nostri posti e preghiamo per ognuno, che nessuno rimanga solo, che nessuno rimanga solo. Poggiamo la nostra mano e preghiamo. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Guarisci.